Leggendo questo articolo è chiaro che Silvio Berlusconi non piace all'Economist, ma voi lo sapete che qui in Italia alcuni addirittura vi chiamano e-communist, giocando sul nome della testata? Well, I think that's obviously ridiculous. Oh sì, lo so, ma è totalmente ridicolo. Siamo chiaramente una pubblicazione liberale, nella maggioranza dei paesi sosteniamo partiti liberali di centrodestra, ma non significa che lo facciamo sempre. L'Italia è un'eccezione. Pensiamo che Berlusconi, per il suo conflitto di interessi, non è la persona giusta per diventare il primo ministro di un paese come l'Italia. E poi perché ha mostrato negli anni del suo scorso governo che non è in grado di fare le riforme di cui ha bisogno l'Italia. Neanche il governo Prodi però ha brillato in quanto a riforme. Se ha letto l'articolo attentamente, ha notato che l'unico riferimento al centro-sinistra è nell'ultima frase. Volutamente non ne abbiamo parlato prima. Pensiamo che Berlusconi sia la scelta sbagliata e per esclusione se ne deduce che Veltroni sia meglio. Ma non siamo entusiasti di questa prospettiva. Abbiamo sostenuto Prodi nel 2006, ma già allora dicemmo che c'erano buone ragioni per temere che la sua coalizione non sarebbe stata abbastanza forte da fare le riforme che sono necessarie. Non sappiamo come sia Veltroni, vedremo. Ma per ora non siamo molto convinti. Quindi il vantaggio di Veltroni sta, secondo voi, nella novità, ma neanche Veltroni vi convince del tutto. In passato ebbi modo di conoscerlo. Penso che Veltroni capisca le necessità di cambiare l'Italia. Ma i membri del suo partito non sempre lo condividono. Avranno difficoltà con i sindacati, con le riforme nel settore pubblico. Se anche vincesse avrebbe una maggioranza risicata. Insomma, un governo di centrosinistra non ci esalterebbe. Ma soprattutto pensiamo che Berlusconi deve lasciare. Nella politica europea recente, quali altri endorsement avete fatto? Ad esempio in Spagna recentemente, tra Rajoy e Zapatero, chi avete scelto? Nelle elezioni spagnole non abbiamo fatto alcun endorsement, non abbiamo sentito necessario schierarci. In Francia invece abbiamo sostenuto Sarkozy. In Germania 2 anni fa la Merkel. Ma negli Stati Uniti nel 2004 abbiamo preferito John Kerry. E quest'anno negli Stati Uniti? Wait and see. Okay. Aspettate e vedrete. Ancora il candidato democratico non è stato scelto e poi ne discuteremo. In passato abbiamo appoggiato sia candidati democratici che repubblicani. Per ora davvero non so. Comunque, tornando all'Italia, in passato non abbiamo mai appoggiato Berlusconi, ma nemmeno candidati del centrosinistra. Chi è che si mostra più interessato alle vostre analisi, lettori italiani o di altri paesi? Abbiamo molti interventi dall'Italia, sia negativi che positivi. In generale, comunque, il tema interessa ai lettori di tutto il mondo, soprattutto europei. Ci accusano spesso di essere anti-berlusconiani o anti-Italia, ma ci sono anche persone che sono d'accordo con noi.